Il punto di Stefano Folli. Questa campagna elettorale si presenta come la più aspra tra chi crede nell'Europa e chi la contesta nel profondo. Solo che quasi nessuno parla del nocciolo del problema, la moneta unica. Solo il leghista Salvini prova ad argomentare il suo no all'euro. Gli altri si limitano a incendiare il bosco. Così il Presidente della Repubblica è sotto l'attacco concentrico di Grillo e Berlusconi per la semplice ragione che egli è il garante della solidità dell'Italia sul piano internazionale e quindi anche europeo. E la Germania è oggetto di una presunta gaffa di Berlusconi, che in realtà è un attacco ben mirato, ma non sulla moneta unica, perché Forza Italia, che ha governato per anni, non sarebbe credibile su questo terreno, bensì sul nazismo, sia la questione più tragica che tocca la coscienza tedesca e la memoria storica dell'Europa. È tutto molto sconclusionato, ma prepariamoci a un crescendo polemico di qui al 25 maggio. Sommati fra loro, i partiti italiani che non credono nell'Europa rischiano di essere più del 50%, il che per un paese che si era sempre vantato di essere il più europeista è un segnale su cui riflettere.